Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Una nuova veste grafica e una serie di servizi riuniti in un'unica piattaforma digitale. Così l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ha pensato e ha realizzato il suo nuovo portale, operativo da questi giorni. Si tratta di uno strumento rivolto sia alle imprese di autotrasporto sia ai committenti, ma anche alle amministrazioni e alle istituzioni, chiamate a confrontarsi con questo importante settore dell'economia nazionale. Il nuovo portale contiene anche il database della regolarità delle imprese, che trasloca quindi nella sua sede naturale, dopo essere stato ospitato temporaneamente sul portale dell'automobilista. Il Ministero dei Trasporti ha voluto rispondere così alle richieste di trasparenza e di rispetto delle regole avanzate dal mondo dell'autotrasporto. Il portale, raggiungibile all'indirizzo www.alboautotrasporto.it, permette infatti di verificare in tempo reale la posizione delle imprese di autotrasporto relativamente al rispetto degli obblighi di legge previsti per operare in questo settore. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E oggi ci occuperemo di innovazione tecnologica attraverso uno strumento che caratterizzerà sempre di più il mondo dell'autotrasporto, e cioè il nuovo portale della regolarità dell'Albo degli Autotrasportatori, un sistema che consente di intrecciare i dati di molte banche dati, come ad esempio quelle della Camera di Commercio, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANIA, per poter conoscere in tempo reale la regolarità di un'impresa di autotrasporto. Ne parliamo in compagnia della nostra ospite, il sottosegretario Simona Vicari, sottosegretario alle infrastrutture e trasporti con delega all'autotrasporto, che abbiamo intervistato presso il Ministero di Porta Pia. Senatrice Vicari, il portale della regolarità dell'Albo degli Autotrasportatori introduce un nuovo concetto di trasparenza in un settore che spesso è considerato poco trasparente. È un grande lavoro, è un grande risultato che è stato raggiunto dall'Albo Nazionale. Il portale della regolarità cambia un po' lo stile di vita, non soltanto nel rapporto tra utenti ed aziende e imprese nell'autotrasporto, ma quello che mi piace di più è pensare che anche il mondo dell'autotrasporto dialoga con le proprie istituzioni di riferimento in maniera molto più collaborativa e non di difesa. Il partecipare ad un albo e avere sotto controllo contemporaneamente la propria posizione è per le imprese un momento di grande crescita e anche di servizi di qualità, si migliorano nella competitività, perché talmente sono tante le norme nel nostro paese che spesso magari qualche azienda, è capitato, non sapesse bene in che cosa fosse inadempiente. In questo modo tutti i dati dell'INPS, tutti i dati del lavoro, dei dati della Camera di Commercio vengono confluiti in una piattaforma che è appunto l'Albo degli Autotrasportatori, e permette alle aziende di sapere esattamente qual è la loro posizione. Permette a me, che devo affidare un carico di merci, di sapere quell'azienda a cui mi sto affidando se è in regola o non è in regola, se è affidabile o meno. Permette a noi istituzioni di controllare meglio la posizione delle aziende anche ai fini della partecipazione agli incentivi che abbiamo messo in campo quest'anno, e cioè il ferro bonus, il mare bonus e anche le spese non documentate. Quanto è importante questo tema, quello della trasparenza più in generale nell'ambito della pubblica amministrazione? Per noi e per me poi in particolar modo, che ho fatto l'amministratore in un comune, il tema della trasparenza, so quanto è importante nella vita di un'organizzazione, anche di una semplice città. Quando ero al Ministero dello Sviluppo Economico, sotto il periodo di Mafia Capitale che scoppiò qui a Roma, tutte le cooperative che sono controllate, le spurie o no, controllate dal nostro Ministero, dal Governo, non erano assolutamente schedate, non erano trasparenti, Ecco, utente che tu ti vuoi rivolgere a una cooperativa, non sai effettivamente se quella cooperativa è vera, è reale, è fittizia, chi c'è dietro ed altro. Abbiamo reso nel 2015 trasparente anche tutto il mondo delle cooperative grazie a un sistema molto simile a questo dell'albo degli autotrasportatori. Non vogliamo dire che siamo più bravi di altri, per me è un fatto di essere normali, cioè stiamo diventando un paese normale, con un po' di ritardo, ma lo stiamo diventando. Tra l'altro lei ha, oltre alla delega sull'autotrasporto, una delega particolarmente delicata che è quella sulle piattaforme tecnologiche, a partire dalla piattaforma logistica nazionale che ha segnato in qualche modo il mondo dei trasporti negli ultimi mesi, ma che lo segnerà sempre di più nei prossimi anni. Il ministro Del Rio ha ritenuto di darmi anche una delega molto complessa, che è quella della piattaforma logistica nazionale, che comunque interloquisce moltissimo con l'altra delega dell'autotrasporto, e sarà secondo noi il punto di arrivo di massima eccellenza di un sistema efficiente. Della piattaforma logistica nazionale se ne parla da tanto in questo paese, so anche come in alcune realtà c'è un po' di scetticismo, ma posso assolutamente garantire che anche su questo ci stiamo lavorando tanto per rendere il sistema efficiente, per permettere alle merci di entrare e di uscire dal nostro paese con una velocità da essere concorrenziale ad altri paesi stranieri, di tracciare anche le merci pericolose o contraffatte, di avere delle corsie doganali particolari, e la società pubblica, prevalentemente pubblica, la Wirnet, che sta seguendo questo progetto, è la stessa società che ha messo in piedi la piattaforma logistica nazionale con tutti, diciamo, i paesi che sono venuti all'Expo. Grazie a questo progetto e a questa capacità di know-how l'Italia ha potuto offrire a tutto il mondo un servizio, quindi anche su questo il mio impegno è quello di lavorarci con grande convinzione, anche se so che parto da un po' di scetticismo, e che invece io spero che attraverso il mondo anche degli interporti e dei nuovi sistemi portuali possa invece trovare nuovo slancio e nuovo vigore. C'è un filo conduttore che lega tutte queste iniziative, che è quello della innovazione, delle appunto novità tecnologiche, della telematica. C'è un altro filo conduttore che in qualche modo sta segnando l'attività del Ministero sul fronte dei trasporti, è quello della sostenibilità, cioè praticamente quasi tutti gli interventi, lei ha citato prima il mare bonus, il ferro bonus, ma possiamo ricordare anche per esempio gli interventi di rimborso sui pedaggi o gli interventi che saranno pianificati per gli investimenti delle imprese di autotrasporto. Hanno tutti questi interventi un comune denominatore, che è quello della tutela ambientale. Anche questo mi sembra un principio abbastanza importante da seguire per il Ministero. Sì, anche sui pedaggi, apro un attimo una parentesi, l'albo nazionale consentirà alle imprese di avere il rimborso molto più velocemente rispetto al passato, quindi penso che questa sia una notizia da ricordare positiva. Sulla sostenibilità noi abbiamo anche quest'anno dato un maggior impulso agli investimenti per il trasporto ecologico, e quindi anche ai mezzi pesanti più ecologici. Ci aspettiamo che dal sistema ci sia una partecipazione massiccia, anche e soprattutto stiamo studiando, questa è una cosa assolutamente nuova, è la prima volta che lo raccontiamo, stiamo studiando come è avvenuto l'ingresso delle merci nei centri storici in Emilia-Romagna. Grazie ad un sistema di collaborazione tra varie sigle e varie associazioni, che proprio con una regia da parte della regione hanno messo in piedi un sistema che permetta, anche a seguito dell'e-commerce che si è molto diffuso, quindi molti adesso merci, prodotti devono arrivare in luoghi dove prima non era necessario, attraverso dei sistemi assolutamente ecologici che possono, diciamo, contribuire a creare anche un servizio molto più light rispetto all'invadenza che in alcuni luoghi oggi riscontriamo.